Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, l'appuntamento di giornata è Juventus-Napoli stasera alle 20.45 su Rai 1, l'ultimo quarto di finale mancante per completare il quadro delle semifinaliste di Coppa Italia. Il nostro appuntamento è quello con il calcio internazionale, capitolo che oggi prenderà le mosse dalle scuse dell'arbitro Reilly, questo fatto senza precedenti accaduto in Inghilterra, le scuse di un arbitro a Lampard per averlo espulso domenica scorsa contro il Liverpool. Ne parleremo tra poco in compagnia di Fabio Tavelli. Prima c'è qualche notizia di giornata innanzitutto, per esempio la medaglia di Peter Phil nel super gigante mondiale in Val d'Isère, è arrivato secondo, la medaglia d'argento alle spalle di uno svizzero e davanti a un norvegese. Questo norvegese ha tolto per soli 5 centesimi, ha vinto la sua brava medaglia di bronzo per 5 soli centesimi davanti a Inerhofer, altro italiano che ha poi commentato: fa davvero male perdere una medaglia per così pochi centesimi. C'è un'altra notizia di giornata che trovo assai lusinghiera per lo sport italiano, che è questa: la Spagna, che è campione del mondo in carica di basket, ha chiamato Sergio Scariolo, e cioè un allenatore italiano di 47 anni, a allenare la propria nazionale, ripeto, campione del mondo in carica, con un contratto di 4 anni, cioè fino alle Olimpiadi di Londra del 2012. Scariolo è un tecnico che ha avuto una lunga carriera internazionale, ha allenato spesso in Spagna, anzi ha allenato più in Spagna che in Italia, ma insomma mi pare che questo riconoscimento alla scuola tecnica italiana valga quello che a suo tempo ci fu nel calcio quando fu nominato Capello come CT della nazionale inglese. Direi anche più prestigiosa questa nomina, in che senso? Ma nel senso che l'Inghilterra era conciata veramente male e si affidò a Capello per risorgere, la nazionale spagnola si affida invece a Scariolo avendo questa carica, essendo campione del mondo in carica, quindi insomma un'altra valenza. Ci sono già addirittura gli ascoltatori collegati con noi per intervenire oggi. Io volevo prima di loro dare un minimo di vigilia sulla sfida di stasera tra Juventus e Napoli, e quindi sentire innanzitutto, diciamo, lo sfidante, perché giocando il Napoli sul campo della Juventus è evidente che lo sfidante è il Napoli, e quindi la vigilia di Reia. Uno scontro di questo genere con l'eliminazione diretta, è chiaro che bisogna affrontare questa gara col massimo impegno, con la massima concentrazione. So che diventa difficile, però bisogna crederci, anche se la Juve, come noi, è da un paio di partite che non sta facendo benissimo. Siamo due squadre che cerchiamo il riscatto, e questa penso che sia l'occasione, l'opportunità giusta per tutte e due le squadre. Noi chiaramente giochiamo a Torino, non abbiamo mai avuto i favori così del pronostico, anche considerando le gare precedenti, però c'è sempre una prima volta. L'importante è che la squadra vada in campo con la determinazione, con la convinzione giusta, e secondo me abbiamo i mezzi per potercela giocare. Questa è l'opinione, speranze di Reia, mentre Ranieri sull'altro fronte ha dovuto per l'ennesima volta quest'anno fare la conta degli infortunati. Sentiamo. Adesso sta un attimino più avanti Iaquinta, però insomma Davide lo vedo giorno dopo giorno sempre più convinto, sempre più pronto, per cui anche lui sta vicino. Camo non ha un recupero lampo, Camo si sta sottoponendo agli allenamenti del caso, per cui viene con noi in ritiro e poi vediamo un po' se ho l'opportunità di metterlo dentro, vediamo un po'. Una tegola vera e propria quella che è caduta sulla Fiorentina ieri con la diagnosi, non ancora la prognosi esatta, ma insomma la diagnosi che riguarda Santana. Sembrava un infortunio nel niente quello dopo lo scontro con Zenoni, mi pare, nella recupero di lunedì di Bologna, e invece Santana ha riportato una duplice microfrattura a tibia e perone, con una parziale lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio. Decideranno in questi giorni se per caso sarà necessario, come si teme, l'intervento. La stagione di Santana potrebbe già anche essere finita. Dicevo che c'è un ascoltatore già collegato, allora diamo spazio a lui mentre Flavio Suardi ha raggiunto Sergio Scariolo, cioè questo, ripeto, il neo commissario tecnico della nazionale spagnola di basket, campione del mondo in carica, e quindi direi un un onore per un tecnico italiano. L'ha raggiunto telefonicamente, tra poco saremo in grado di mandarvi, perché è una notizia di pochi minuti fa, e quindi saremo in grado di mandarvi queste prime, questa prima intervista da CT di Scariolo. Maurizio ha chiamato la provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Volevo chiedere due cose. Beh, la prima è sapere che speranza oppure che probabilità ha il Napoli questa sera di riuscire a passare la questa semifinale, dato che cioè, questi quarti, dato che la Juve ha diverse assenze. E poi la seconda cosa, volevo sapere, ma che fine ha fatto Bruno Perini? Mi mancano le sue rassegne stampe. Grazie. Questo sinceramente non glielo so dire. Io faccio già fatica a rispondere per questa oretta, no? di calcistica in cui ci facciamo compagnia, e non sono davvero in grado di entrare nel merito poi di altri programmi o di altre scelte. Ripeto, faccio fatica a rispondere di questo. Quante speranze al Napoli? Non lo so, io credo qualcuno in meno della Juventus, perché la Juventus da un lato trovarla destabilizzata, come è indubbiamente in questo momento, può essere un motivo di speranza, per usare il termine che ha introdotto lei. Nello stesso tempo vuol dire trovarla ancora più arrabbiata e ancora più famelica, quindi non so se tutto sommato sia un vantaggio. Di sicuro il Napoli, una semifinale di Coppa Italia è un traguardo di prestigio, e credo che tutte e due se lo giocheranno fino in fondo, perché per il Napoli sarebbe un obiettivo stagionale eccellente, per la Juventus, che ne ha altri di più prestigiosi, forse un po' meno, ma col dubbio che qualcos'altro svanisca, anche la Coppa Italia poi potrebbe avere il suo bravo significato. Volevo sottoporvi una tabella che è apparsa sul Guerin Sportivo, per la verità della scorsa settimana, l'avevo sempre messa da parte come un ritaglio, e mi pare che oggi, insomma, mi pare molto interessante, se non altro molto curiosa, ed è questa. Il Guerino si è divertito a fine girone d'andata ad accendere, come ha scritto nella presentazione di questo servizio, accendere il tassametro della Serie A, e cioè a calcolare quanto sono costati le prestazioni dei giocatori meno impiegati nel corso della stagione, della prima metà della stagione, del girone d'andata, in rapporto ovviamente ai loro ingaggi, e si è divertito a fare un calcolo al minuto. Allora, quello che è costato più caro sino ad ora è Simone Inzaghi della Lazio, che è costato 6.250 euro al minuto. Il rapporto ovviamente è tra l'ingaggio e i minuti giocati nel girone d'andata. Quindi 6.250 euro al minuto, seguito a ruota, tra l'altro, e questa è la curiosità, proprio dal fratello, da Filippo Inzaghi del Milan, che è costato 6.172 euro al minuto. Non molto meno Crespo, 5.993, Figo, 5.645, Shevchenko, 5.221. Seguono Adriano Vieira, Mancini, Iaquinta, Quaresma. È chiaro che sono giocatori di vetrina e di ribalta, perché sono quelli con gli ingaggi più alti e sono quelli che giocano in squadre in cui il turnover è più forte, al di là poi degli infortuni. Ma certo che 6.000 euro e passa per un minuto giocato è una discreta sommetta. Tocca a Enrico da Genova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io volevo porre questa, ancora parlare del caso Beckham. Abbiamo un contratto da gennaio a marzo, quindi alcune squadre lo incontreranno e altre no. È vero che esistono anche gli infortuni, ma questo fa parte delle regole del gioco. Mi sembra che si mini un po' la regolarità del campionato. Per esempio il Genoa, noi l'abbiamo incontrato, ha giocato bene, ci ha fatto pure gol, e fra due mesi gli altri non lo incontreranno più. Poi volevo ringraziare per esservi ricordati anche delle squadre che non hanno la maglia a strisce, il Genoa appunto. Grazie Enrico. Sì, le squadre bicolori, sempre, perché ieri si parlava di rosso-blu in particolare, però certamente bicolori non a strisce, ma poi il significato è un altro, soprattutto quello a cui alludeva lei. No, io non credo che mini la regolarità del campionato. Mina la regolarità, no. Io continuo a sostenere che mina un po' la credibilità, no? di tutto, perché questi parcheggi, questi affitti, questi contratti temporanei. Io e non solo io, perché sto leggendo le prese di posizione anche da parte di UEFA, FIFA, sarei piuttosto contrario addirittura alle riaperture dei mercati. Io credo che un anno sia un lasso di tempo Visto che oggi oltretutto ci sono rose così ampie e si gioca in 20-25 nel corso di una stagione, è ovvio che ci sono gli infortuni, ma è ovvio che ci sono anche i settori giovanili. Insomma, io sarei per un campionato che comincia a quella maniera a settembre e fino a giugno termina a quella maniera. Poi un allenatore si può sempre far saltare, no? come da copione collaudato, però insomma, sarei così, quindi insomma, istintivamente contrario a tutte queste cose. Ripeto, è una riflessione che l'UEFA sta facendo e che in altre nazioni si sta facendo strada. Ovviamente con grande disdoro sarebbe dei quotidiani sportivi che a quel punto de che campano se il mercato è addirittura chiuso. Oddio, anticipano trattative estive o magari del quinquennio successivo, perché però è pronta l'intervista, sì. Allora, Flavio Suardi, vi dicevo, ha raggiunto telefonicamente Sergio Scariolo, neo commissario tecnico della nazionale spagnola di basket, campione del mondo in carica. Sentiamo. Quello che posso dire è che è un carico di prestigio ma anche di grande responsabilità, perché naturalmente nei confronti di un movimento all'avanguardia della pallacanestro mondiale e anche a livello di tifosi, di appassionati, che sono moltissimi, bisogna essere all'altezza della situazione. C'è talento per poter pensare di rispondere alle aspettative, ma non sarà facile, perché la concorrenza è fortissima e perché si tratta qui di giocare per le primissime posizioni. Tra l'altro non sarà facile anche perché lei si divide, diciamo, con il doppio ruolo di allenatore della nazionale e allenatore tra l'altro di un club abbastanza lontano dalla Spagna, cioè in Russia. Sì, questo è tutto sommato un vantaggio, perché così non ci sono sospetti, polemiche, come ci sono stati storicamente quando un allenatore allenava la nazionale di un paese e anche una squadra di quello stesso campionato, di quello stesso paese, per cui in questo senso io credo che sia anche un vantaggio, anche se poi naturalmente bisognerà fare uno sforzo superiore per mantenere un aggiornamento perfetto sull'attività e sulle prestazioni di tutti i giocatori di interesse nazionale. In un periodo in cui in Italia si parla spessissimo di allenatori che magari non sono riusciti a tornare nel nostro paese con un progetto credibile o ambizioso, lei non ha mai avuto il rammarico di non essere riuscito, dopo una grande carriera all'estero, a tornare nel nostro paese? Ma non è una questione di non riuscire, è una questione che non si danno le circostanze idonee per avere un programma che sia sufficientemente ambizioso e che coincida naturalmente con un momento nella carriera professionale di un allenatore in cui è libero di poter scegliere, per cui non sono l'unico in questa situazione evidentemente, però ecco, direi che non c'è da parte mia nessun tipo di sensazione cattiva, anzi, l'Italia è il mio paese, anche se naturalmente il movimento della pallacanestro italiana, per quanto possa dare adesso forse qualche timido segnale positivo, sta vivendo, ha vissuto, ancora è in un momento di grande difficoltà. Congratulazioni dunque a Sergio Scariolo, ancora un ascoltatore, prima di cambiare poi capitolo e arrivare al calcio internazionale. Alessandro, provincia di Chieti, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie. Dica. Ascolti, una riflessione per quanto riguarda la Juventus e poi volevo sapere cosa ne pensa lei. Come ben diceva prima, la Juventus è dall'inizio della stagione che lotta contro gli infortuni e mi chiedo se c'è un problema di preparazione fisico-atletica. Però quello che non capisco, quello che non capisco però poi è sentire in alcune trasmissioni televisive di una Juventus in crisi dopo aver perso due partite. Tra l'altro contro il Cagliari, che era in forma sensazionale, sapendo che l'Inter ha vinto diverse partite giocando molto peggio rispetto alle ultime due prestazioni della Juventus. Ascolto per radio, grazie. Ma sul molto peggio si può discutere, perché la Juventus di questo inizio d'anno, per esempio, non è che stesse giocando benissimo, non è che avesse meritato tutte le vittorie che ha ottenuto, a cominciare da quella con la Fiorentina. Tutto è sempre relativo, dipende sempre dal colore degli occhiali con cui si guarda l'accaduto. Ed ecco scendere in campo il ministro degli esteri, Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, grazie. Dunque, annullata la squalifica a Lampard, con tanto di scuse da parte dell'arbitro Reilly. È un fatto che in Inghilterra, insomma, ha suscitato una discreta sensazione. Perché? Perché direi che l'introduzione anche lassù della prova televisiva, per fatti anche qui non tecnici ma disciplinari. Ma vorrei che raccontassi un po' bene tu la storia. Ma la vicenda è questa: intorno all'ora di gioco ad Anfield domenica, partita tra Liverpool e Chelsea, partita sullo 0-0, c'è un contrasto a metà campo tra Lampard e Xabi Alonso, tra l'altro due giocatori che non si amano particolarmente, avevano anche qualche discreto precedente, e l'arbitro Riley, che è molto vicino all'azione, giudica violento l'intervento di Lampard, lo espelle e la federazione gli commina 3 giornate di squalifica. Il replay immediatamente proposto dalla regia inglese fa vedere che sì, l'entrata di Lampard è virulenta, certamente al limite, però è sul pallone, e lo stesso Xabi Alonso probabilmente commette fallo anche lui. Ora, da uno che la fa completamente franca come Xabi Alonso a uno che lascia la squadra e si prende 3 giornate come Lampard, la differenza è parsa abissale alla Federal Football Association. E quindi, dopo anche aver letto il referto dell'arbitro, ma soprattutto dopo che l'arbitro ha ammesso di aver commesso un errore riguardando i filmati alla TV, e lo stesso Riley ha telefonato a Lampard chiedendo scusa, insomma la federazione si è sentita in dovere di evitare la beffa oltre al danno, perché il danno forte il Chelsea l'ha subito nella partita contro il Liverpool, restando in 10 certo, nella parte finale della gara, dove tra l'altro il Liverpool ha segnato 2 gol. Ora le controprove per fortuna nel calcio non esistono, e quindi non sapremo mai come sarebbe andata a finire. Quello era il danno, la beffa era di favorire le prossime 3 squadre che affrontano il Chelsea senza Lampard. Ora, io devo dirti che vista la velocità naturale, io sono ancora convinto che Lampard andasse espulso, perché condivido. Il rallentamento ossessivo dell'azione ne toglie una componente che secondo me è decisiva, e quindi io non credo molto sinceramente di essere di fronte a un momento nel quale bisogna scendere in e far festa perché un arbitro ha ammesso un suo errore. Io credo che in situazioni come queste sia giusto togliere magari 3 giornate di squalifica, perché forse era troppo, però continuo a pensare che a velocità naturale un essere umano, anche ben piazzato come Riley, possa prendere una decisione magari non giusta al 100%, ma non stiamo parlando di un intervento completamente fuori, cioè Lampard poteva essere ammonito, va bene, però lui è entrato a gamba tesa su quella palla, certo ha preso la palla, però lì il confine è veramente molto molto sottile, quindi cioè, capisco che il discorso sia molto ampio, e poi sono molto curioso di sentire gli ascoltatori quando poi li interpellerai. Sì. Però io credo che Riley si debba giustificare non troppo, perché è una decisione che forse avrei preso anch'io. Sai cosa, personalmente, io prima volevo sentire appunto la versione tua, la versione internazionale, come è suonata in Inghilterra. Io l'ho trovata molto comica per questa ragione, perché era eccessiva questa corsa a canossa da parte di Riley, no? Da parte di quest'arbitro, sì, che adesso ho anche imparato come si pronuncia correttamente, sì. E fin lì siamo arrivati. Da un lato, dall'altra è grottesca perché? Ma perché Riley si dovrebbe scusare per non aver cacciato a fine partita quell'altro Bosingua, autore di una pedata nel, chiamiamolo, sedere, di una violenza discreta, ma volgarità soprattutto incredibile a Benayoun del Liverpool. Sì, allora, sì, se avesse preso il telefono e il microfono per dire: ragazzi, né io né quei due scioperati degli assistenti del quarto uomo, anzi quei 3, ci siamo accorti che questo in diretta TV ha tirato una pedata volgarissima, ma tra l'altro in possesso di palla l'altro, no? Quindi a palla lontana, allora avrei capito, ma scusarsi per un'entrata che poteva essere valutata al 50%, sì, ma anche 60 e 40, nel senso che lì è una palla contesa, nel senso che la palla è in mezzo e i due ci vanno, chiaro, Lampard non ha un movimento felice e va con un po' di piede a martello. Ripeto per la milionesima volta, a velocità normale secondo me era da espulsione, e l'arbitro la vede non solo con 2 occhi e non 100 telecamere, ma la vede a velocità normale, quindi ci sta che possa essere considerata eccessiva la punizione delle tre giornate, perché le tre giornate dipendono poi dal fatto che si parla di condotta violenta e quant'altro. Però insomma, da qui a dire che abbiamo scoperto il filone di lunga vita del calcio e possiamo eliminare gli errori con la moviola in campo, secondo me no. Nemmeno secondo me, no. Fabio, altri due o tre capitoli. In questo momento i campionati non stanno buttando moltissimo. Adesso ormai il Manchester ha fatto il suo sorpasso, è rimasto in scia soltanto il Liverpool. Beh, se vogliamo ci sono quei due gol di destro di Messi, no? Uno dopo l'altro, sì. Il fatto che questo usi anche il destro in quella maniera, Se questo comincia a segnare di destro e anche di testa, poi diventa ingiocabile. No, beh, in settimana poi c'è stato il gol numero 307 di Raul, in Spagna, c'è la Bundesliga che è ripresa e insomma il Bayern di Monaco da primo a pari merito è diventato quarto perché ha perso ad Amburgo, e l'Hoffenheim che ha perso per tutta la stagione il suo giocatore più forte, Ibisevic, ha preso Sanogo ed è di nuovo prima, è un campionato con i gol di Sanogo, con il gol di Sanogo, esatto. Ed è un campionato, insomma, io sono una piccola parte di tifo a questo punto per l'Hoffenheim la faccio, oppure nella Ligue 1 un Lione che non riesce ad andare via, anzi spesso zocca, e così, ecco, grandi temi devo dirti non c'è, no, c'è un po' di mercato, se vuoi, insomma, ecco, un po' di mercato e un po', ti chiedevo appunto come, perché come si sta vivendo in Italia la vicenda Beckham è abbastanza noto, sì. Tra poco cominceremo a sapere come la vivono negli Stati Uniti, non tanto come opinione pubblica, perché là non sappiamo bene che il rimbalzo, l'eco è leggermente diverso che da noi, leggermente più basso, ma in Inghilterra, visto che emotivamente sono molto coinvolti, loro pensano, gli inglesi pensano a maggioranza, pare tu, in questo momento, che Beckham resterà o che Beckham se ne andrà? Secondo me loro fanno il tifo perché Beckham resti al Milan, perché questa è l'unica possibilità che hanno di rivederlo in nazionale. Questo i giornali, nel senso che Beckham in nazionale, Beckham in Europa è garanzia sempre di qualche copia in più, perché lui comunque a prescindere ti regala foto, ti regala titolo, lui e sua moglie, ovviamente sua moglie prima di lui. Io credo che l'opinione pubblica inglese non si stia scaldando più di tanto, nel senso che non mi pare di aver visto dei movimenti popolari. Lui è molto popolare certamente, ma non è più in una fase nella quale la gente stravede per lui. Sì. Penso che la stampa invece, la stampa quella che colpisce di più allo stomaco più che ad altre parti, sia una stampa dei tabloid, così, che faccia il tifo perché Beckham resti a Milano, ma per ragioni intuibilissime che non possono sfuggire. Quindi devo anche dirti questo, che per la prima volta poi in vita mia domenica sera ho avuto modo di parlare un minuto con Beckham e l'ho trovato una persona normalissima, e continuo a interrogarmi come possa essere stato montato un carrozzone così attorno a lui, che mi sembra, e me lo confermano anche persone che lo stanno frequentando un po' di più, una persona di un profilo talmente tranquillo e talmente normale che vederlo continuamente sulla bocca di tutti, sulle prime pagine e comunque legato ad avvenimenti non calcistici, mi fa pensare che ci sia veramente un trust di cervelli o presunti tali che gli organizzi davvero tutto, ma che lui sia solo il terminale, diciamo, che è il front di tutto quello che c'è dietro, perché altrimenti sarebbe un attore fantastico. Barbara scrive: Lampard è il classico caso da moviola, assolutamente necessario oggigiorno, quindi finitela col fatto che siete contro questo mezzo, ma tanto non leggerà questo messaggio, come potrà. Hai fatto bene a leggerlo, io. Come potrà notare Barbara, perché se c'è un caso in cui la moviola non solo non serve assolutamente a nulla, è proprio questo, perché sono arrivati. Infatti si può discutere sui centimetri del gioco e anche lì con Io discuterei sui metri, nel senso che dove ci sono dei metri sì, ma dove ci sono dei centimetri, anche perché poi la riga che viene tirata anche dalla televisione, tu facci caso, adesso ovviamente si tira la riga e da lì sembra tutto più facile, ma quanto spessa tu la fai la riga e poi incidi, perché lì stiamo parlando di un televisore, non stiamo parlando di un campo, e quindi anche la densità della riga può andare a toccare parti del corpo che magari non verrebbero toccate da una immaginaria retta ma molto sottile. Certo, quindi stiamo veramente parlando di niente, a parere stiamo mio. Parlando di un po' meno di niente, di un mezzo che siamo sotto il par. Proprio in questa fattispecie ha generato semmai ulteriore confusione. Chiuderei questo capitolo internazionale di oggi brevemente, perché siamo sui 30-40 secondi, diciamo un minuto residuo, non di più, sì. Con il fatto che Blatter in persona si è sceso in campo appoggiando la tesi italiana della, non dico della congiura, ma insomma dell'eccesso di pena nei confronti di Possanzini e di Mannini, e questa mi sembra una svolta molto significativa. Mi sembra una svolta significativa. Io, come dire, ammetto un piccolo conflitto di interessi, perché forse è l'unico calciatore con il quale ho rapporti, che è Davide Possanzini, e quindi sono umanamente anche toccato dalla sua vicenda, però credo che sia un passo importante, voglio sperare decisivo, perché se sanzione ci debba essere, e in parte c'è già stata l'anno scorso, e quindi se squalifica ci deve essere, sia un po' più commisurata all'entità della pena. Insomma, un anno è quello che viene dato ad alcuni atleti ai quali viene riscontrata la positività. Qui stiamo parlando d'altro. Quindi credo che una mossa del genere Blatter non la faccia a caso, e quindi mi auguro non tanto per una persona che considero molto seria come Possanzini, ma mi auguro perché venga ristabilita l'equità di una pena, nel senso che comunque ci deve essere una pena, perché, certo, perché quello che è accaduto non deve accadere, cioè i giocatori alla fine della partita devono andare a fare l'antidoping, punto, e non c'è Cosmi, non c'è Corioni, non c'è presidente che possa chiudere in uno spogliatoio per parlare d'altro. Detto questo, stiamo sempre parlando di un qualcosa che non può essere, a parer mio, punito con un anno di squalifica. Mi sembra veramente inverosimile. E che il calcio mondiale abbia capito che questa è veramente un'esagerazione non può che essere un fatto positivo. Grazie Fabio. D'accordo. A voi, buona giornata. A proposito di Mannini e Possanzini, cioè dell'ultimo argomento affrontato prima dell'intervallo, è in corso un vertice nella sede della Federazione Italiana, no, nella sala giunta del CONI, un vertice per studiare una linea d'azione comune, leggo sull'ANSA, contro la squalifica di un anno inflitta dal TAS a questi due giocatori. E lo sport italiano è sceso in campo in massa, perché a questa riunione stanno partecipando il presidente Petrucci, il segretario generale Pagnozzi, i vicepresidenti Agabbio e Pancalli, la Federcalcio è rappresentata da Abete, presidente federale, da Albertini, vicepresidente, e l'asso calciatori da Sergio Campane, cioè da presidente, poi da Grosso e Grazioli, c'è anche Matarrese, e in più c'è Francesco Ricci Bitti, che è membro CIO e anche dell'esecutivo della VADE, cioè dell'ente antidoping mondiale che ha preso questa durissima decisione. È arrivata a posto nel frattempo, e una mail vorrei leggere, che è firmata da Armando Russo da Taranto, che condivido in pieno, non è la prima volta. Ho appena finito di vedere, scrive Armando, gli infortuni occorsi a Sant'Anna e a Rise, per i quali la degenza sarà lunga e dolorosa. Premesso che il calcio è uno sport di contatto e l'infortunio è messo in calendario, mi ha dato un enorme fastidio vedere la reazione di chi ha commesso il fallo, perché nel primo caso è stata una scenata isterica all'indirizzo dell'arbitro per averlo sanzionato il fallo, nel secondo c'è stata una finta di essersi fatto male per farla franca, e poi continua con altre considerazioni, altri esempi sul genere. Effettivamente, a pensare che poi la prognosi è stata quella, la scena è abbastanza fastidiosa. Mauro, provincia di Padova, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Volevo riallacciarmi all'ascoltatore primo che è entrato in trasmissione per quanto riguarda le possibilità del Napoli sulla Juventus di questa sera. Allora, io penso che il Napoli abbia molte più probabilità di quelle che si dicano per questa squadra, per il semplice motivo che questa squadra sta arrancando da inizio campionato, non ha un gioco, ha un allenatore mediocre a mio avviso che non ha dato nessun gioco alla squadra, abbiamo avuto dei risultati contro la Fiorentina vergognosi, un rigore e un gol non visto, quindi la partita è stata rubata nettamente, e di conseguenza questa squadra a mio avviso non può andare molto lontano. La squadra è quella che è. Lasciamo stare gli infortuni, perché anche le altre squadre hanno decisamente molti anche più infortuni della Juventus, e di conseguenza questo allenatore, per conto mio, è tutta la causa che non ha coraggio delle proprie azioni, di togliere i giocatori quando fanno pena e di inserire altri giocatori che stanno in condizioni migliori. volevo sentire una sua opinione. No, le faccio una domanda prima io. Lei è un affezionato lettore di Tutto Sport, immagino. No, leggo saturnamente la Gazzetta. Ah, boh, strano, perché queste tesi coincidevano al 1000%. No, io la penso in maniera molto, molto diversa. Non credo che queste... Cioè, non solo, ma ricordo che... un po' di tempo fa, ma insomma non secoli fa, erano bastate due partite sbagliate alla Juventus per scatenare processi sommari, no? e lapidazioni assortite che poi si sono squagliate come neve al sole di fronte a una serie di risultati assolutamente impressionanti. Può darsi che stavolta non rivada così, ma insomma aspetterei almeno che alle due sconfitte se ne aggiungessero un'altra o più per se non altro, ripeto, per non rischiare il replay della volta precedente. Gianfranco ha chiamato invece da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. No, intervengo solo per dirle che sono d'accordo con lei quando dice che il contratto di giocatore sarebbe meglio che durasse una stagione. Adesso non conosco le condizioni del contratto di Beckham, però sarebbe troppo bello. Io sono juventino, mi piacerebbe allora noleggiarmi per un mese Leo Messi. Sì, secondo me si rischia di arrivare a quel punto. Bisognerebbe che il Barcellona fosse d'accordo, in questo caso avrei qualche dubbio, insomma. Di Juve Milan, Juve Inter, Juve Roma, e il Barcellona fosse un mese tranquillo, la cosa praticamente magari si potrebbe anche fare, però è un rischio, insomma. Rischiamo di arrivare non so, secondo me sarebbe meglio avere dei paletti, insomma, delle regole. Sì, credo anch'io. Io ho sempre pensato questo, ma non sono l'unico a pensarla così. Poi magari in minoranza sì, ma in minoranza si sta, a parer mio, da sempre, si sta molto meglio che nelle maggioranze. Meno siamo, meglio stiamo, diceva Renzo Arbore in uno slogan felicissimo, a parer mio, di qualche tempo fa. Credo che il costruire una squadra sia una cosa seria, ma questo vale per qualunque sport di gruppo, e credo che tutta l'opera sarebbe meglio valutata se una volta costruita quella squadra, una volta investite le risorse, una volta fatti i quadri, una volta fatta quella squadra, quell'azienda, quel gruppo di lavoro andasse avanti per un anno, che poi per un anno sono 9 mesi, tra l'altro, e le somme si tirassero alla fine di quei 9 mesi, senza la possibilità continua e ininterrotta di riaprire chissà che. Si potrebbero magari studiare delle finestre in caso di infortuni gravi o da un certo numero di infortuni in su, ma forse nemmeno quello, perché invece sarebbe proprio il modo di ricorrere ai ragazzi, di dare spazio alle primavere che oggi rarissimamente riescono a far affacciare in prima squadra anche i loro talenti, insomma. Salvatore Città di Castello, buongiorno. Garanzini, buongiorno. Buon pomeriggio. A lei. Allora, a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, nel campionato di calcio italiano ci sono stati noti cocainomani trovati poi in seguito, e la mia sottolineatura sta nel fatto che comunque in un quarto d'ora uno può cambiare le urine, le parlo da ciclista, e non mi spiego il perché i ciclisti debbono stare tutto il giorno a pensare che ci possa essere un controllo antidoping, e invece il calciatore può fare tutto quello che vuole. Tutto qui. È molto semplice, Salvatore, perché il ciclismo, tutti i maltrattamenti di cui oggi è vittima e che gli vengono inflitti ormai da anni, se li è meritati, se li è cercati col lanternino, attraverso la sistematica elusione dei controlli antidoping, attraverso le sistematiche promesse di mettere la testa a partito, di ricominciare a correre in maniera pulita, e il sistematico ricorso continuo e rilanciato al doping. Lei ha parlato di qualche caso di cocainomani di fine anni 80 o 90. Io aggiungerei anche qualche altro caso di insomma di nandroloni vari e di cose assortite che hanno riguardato anche il mondo del calcio e che hanno e che sono stati puniti con squalifiche ridicole, ridicole perché eravamo in tempi in cui ridicolo era il calcio italiano. Ricordo il caso Davids, ricordo il caso Bucchi e ne ricordo tanti altri, ne ricordo alcuni altri, però non mi si può dire che questo era un sistematico uso di doping nel mondo del calcio come invece è stato fatto nel ciclismo. Se in questo momento c'è stata una ribellione così forte, che non è soltanto del mondo del calcio ma che riguarda tutto il mondo dello sport italiano e non solo, nei confronti di questa sentenza, significa che questa sentenza era abnorme, anche perché per come si sono svolti i fatti, la mia sensazione, che sarà sbagliatissima ma che c'è, è questa: se un allenatore e un presidente hanno rinchiuso i giocatori del Brescia nella fattispecie perché sconfitti dal Chievo per 2-0 in quella partita, ed era la terza sconfitta consecutiva, se li hanno rinchiusi in spogliatoio, hanno fatto tardare i controlli antidoping, io avrei innanzitutto squalificato il presidente del Brescia e l'allenatore del Brescia che erano responsabili di questa decisione. Poi avremmo parlato dei giocatori che comunque 20 minuti più tardi i controlli si sottoposero regolarmente. Pierino da Teramo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, volevo avere la sua opinione sul fatto di quanto potrebbero incidere le coppe, cioè la Champions League sul risultato del campionato. Secondo me inciderà molto, perché il fatto che Juventus, Roma e Inter ultimamente stanno perdendo colpi, io lo imputo al fatto delle partite che devono disputare tra 15 giorni, e per questo il Milan molto avvantaggiato per la corsa allo scudetto. Molto, insomma, è avvantaggiato certamente, ma questa è una vecchia storia. Chi non gioca le coppe ha delle fatiche in meno, fatiche fisiche e fatiche mentali, quindi è ovvio che tra fine febbraio e il 10 marzo Inter, Juventus e Roma avranno dei supplementari che agevoleranno indirettamente il Milan in quel periodo. Poi bisogna vedere quanto dura le avventure di Inter, Juventus e Roma. E quindi i conti su quanto peserà poi davvero la Coppa su queste tre squadre facciamoli dopo il 10 marzo, controllando che ci siano ancora. Ripasso di Storie dello Sport con Nicola Filippone. Sembra ieri. 4 febbraio 1995. Alberto Tomba trionfa in slalom gigante sul tracciato di Adelboden, con 7 centesimi di vantaggio sullo sloveno Kosir e 14 sul norvegese Nielsen. Per il campione italiano si tratta della prima affermazione in carriera sulla prestigiosa pista svizzera. Tomba centra così la decima vittoria nella Coppa del Mondo 94-95. Chiuderà la stagione in testa alla classifica generale, regalando allo sci azzurro un successo che mancava da 20 anni esatti, quando sul gradino più alto del podio si era piazzato Gustavo Töni. Aver letto in precedenza un messaggio firmato Barbara in cui si sfidava, come spesso accade, si sfidava il conduttore o il conducente del programma a leggere quel messaggio così provocatorio, ha innescato qualche tentativo di imitazione da parte di qualche sciocchino che sta scrivendo: legga questo sms, se no lei è fazioso. Non ci penso ovviamente nemmeno. Uno al giorno può levare lo sciocchino di torno, ma non è poi il caso di esagerare. Angelo dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, sono Angelo di Verdello. Una curiosità, stamattina così nello sfogliare la Gazzetta mi è venuto sott'occhio un articolo di Gemmano Mobolenta, sì, che dice che praticamente il ristorante assassino, il covo di Milano, dei covo milanisti, dei milanisti, l'Expo, dove Rocco andava il mitico Parona andava sempre a mangiare dopo le partite con i giocatori, così i proprietari praticamente si ritirano, e così mi era venuto un po' di dispiacere, visto che io sono milanista e soprattutto estimatore di Rocco, mi dispiaceva un po' aver letto questa cosa. Lei non ne sa niente? Non ne so niente, sono andato la settimana scorsa a salutare, ad abbracciare Lamberto Gori, figlio del grande Ottavio, e Lino Morganti, due giorni prima che, non che chiudessero, perché l'assassino continua, ma che insomma che cessassero questa loro attività. Hanno passato la mano per raggiunti limiti di età, tra l'altro le età riportate stamane nella Gazzetta sono sbagliate, non di poco, ma al di là di questo resta la suggestione. Lei dice era il posto in cui Rocco andava a mangiare, non confondiamo, per Rocco quello era l'ufficio, era il suo ufficio milanese e lui lo chiamava esattamente così. Cioè, l'aspetto in ufficio, dicevi, quando gli chiedevi un'intervista, quando gli chiedevi un colloquio, una cosa un po'. E i primi tempi, la prima volta mi ero chiesto dove potesse essere questo ufficio di Rocco a Milano, visto che la domanda gliel'ho posta in via Turati, cioè nella sede del Mina. E l'aspetto, una delle stesse sere, il mio ufficio, ho poi scoperto che trattavasi dell'assassino. Altri tempi e l'augurio a questo storico locale milanese, che però da tempo non era già più il covo del Milan, se no molto ma molto saltuariamente, a differenza di un tempo, di rinnovare i fasti di questi 50 anni. Ha chiamato Gennaro da Trapani, buongiorno. Oh, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Lei è un professionista serio ed è quello che lei dice, è come la Bibbia, questo Napoli è un bluff. Una cosa seria, grazie. Questo Napoli non è un bluff, perché se fosse un bluff, dopo 20 e passa giornate di campionato si sarebbe qualcuno avrebbe detto vedo e il gioco sarebbe finito, perché non avrebbe più rilanciato. Invece ha rilanciato a ripetizione dopo qualche flop che ha avuto, come inevitabile che sia. È una squadra in lenta costruzione. A me pare che nessuno, né dal presidente all'allenatore ai giocatori, avesse mai promesso chissà quali traguardi, anche quando i tifosi ovviamente erano autorizzati a sognare, vista la posizione di classifica. E questo è un segno di onestà da una parte e di senso della misura dall'altra. Io credo che nessuno all'interno del Napoli sia sorpreso del fatto che c'è stato un ridimensionamento, che tutti siano convinti che adesso da questo ridimensionamento bisogna cercare di uscire, togliendosi dalla testa, come De Laurentiis ha già detto, di piazzarsi nelle prime quattro. Se te lo togli dalla testa può darsi che poi miracolosamente accada, ma se quello è l'obiettivo stagionale, allora no, allora no, non credo che possa essere possibile, che sia possibile raggiungerlo. Da Torino, Marco, buongiorno. Sì, Garanzini, buongiorno. Dica. Io... Guardi, volevo intervenire riguardo i Mannini e Possanzini. Sì. Sarò una voce fuori dal coro, no? Però come ha detto lei prima, magari essere in minoranza è meglio che essere in maggioranza. Certo. Io sono assolutamente d'accordo con il TAS che ha squalificato Mannini e Possanzini per un anno, per un motivo. C'è questa regola che dice che i giocatori devono rimanere a vista dei sì, diciamo, di questi controllori, no? Dell'antidoping, da quando escono dal campo fino al momento in cui ci sono i prelievi, eccetera. Se c'è questa regola, un motivo sicuramente c'è, perché evidentemente si possono, non lo so, poi io non sono del settore e non le so dire con precisione, ma si potranno assumere delle sostanze, non lo so, dei coprenti magari, no? E quindi che cosa si rischiava dando una squalifica lieve ai due giocatori? Di creare un precedente per cui le squadre potevano tranquillamente, magari, io faccio un'ipotesi, no? Magari trovato un coprente che agisse nel breve periodo, si dava la possibilità alle squadre, davanti a una squalifica, non so, di 15 giorni, di poter dare delle sostanze ai giocatori, che poi tanto bastava mantenerli chiusi negli spogliatoi e gli si dava questo coprente e sarebbero usciti positivi. Ma certo, Marco, infatti il provvedimento si spiega soltanto in un modo, ma loro stessi hanno lasciato filtrare questa spiegazione, cioè che appunto non creasse precedente. Proprio per questo secondo me andavano squalificati anche duramente i dirigenti e l'allenatore, perché una volta accertata che la responsabilità, o i casi sono due, o questa versione è una balla e allora è un altro discorso. Dato che esistono precise testimonianze e ricostruzioni secondo cui una balla non è, e allora andavano squalificati il presidente e l'allenatore, in maniera che come minimo questo non facesse precedente per poi furbate di quel genere a cui sta pensando lei. Sono anche casi eccezionali, ma in ogni caso bisognava far passare bisogna far passare il principio che se c'è un antidoping, l'antidoping ha, ha la precedenza su qualsiasi altro evento più o meno contemporaneo ci sia, e deve essere precisa responsabilità della società quello di anteporre questo controllo e questo esame a qualsiasi intervento di presidente o di chi che sia, insomma. Chiudiamo per oggi con Stefano dalla provincia di Modena. Buongiorno. Sì, buongiorno dottore, salve. Sì. Niente, io lavoro in ospedale così e so per certo che è molto difficile che ci siano coprenti o comunque sostanze che vadano ad interagire con che vadano infatti a coprire il doping, ecco, voglio dire. Oltretutto è anche vero che per alcune sostanze si fa la ricerca dei capelli, per dire, dal gran che si accumulano nel tempo, quindi volevo solo portare questa testimonianza, ecco, è molto difficile che ci siano, per cui anche se questi giocatori avessero fatto dopo un'ora il test, comunque io credo che sarebbe al 90% risultato positivo se avessero assunto qualcosa, o negativo se non l'avessero assunto. E in più, molto velocemente, visto che ormai i calciatori sono professionisti, magari cercare di instaurare delle regole di medicina del lavoro, dove appunto i lavoratori fanno, certe categorie di lavoratori fanno delle ricerche di sostanze proibite, e al limite prendere anche spunto da lì su quella che poteva essere la punizione da infliggere, ecco, tutto lì. Grazie dottore, grazie Stefano anche a lei. Beh, Dario La Vicenza mi dice: ma lei non ha mai preso a sua volta del mono al grande Paron? Sì, qualcuno sì, direi affettuoso, se non ricordo male, ma insomma ci parli di Rocco e torneremo ad amare il calcio. Ve ne parlerò presto e vi manderò addirittura in libreria tra non molto, cioè vi manderei se non fosse una cosa da interessi privati in atti d'ufficio, tra una quindicina di giorni. Buon pomeriggio a tutti, grazie a Flavio Suarni in redazione, a Filippo Aureggi in regia, e Giornale Radio.